Il coordinamento Lesbiche Romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, stasera siamo in redazione Claudia, Lucilla, che sono io, e Caterina, che gentilmente viene a fare con noi la fonica, visto che siamo un po' imbranate. Allora, la trasmissione di questa sera è dedicata alla rubrica Tuteliamo la nostra indignazione, le donne contro senza per, un pezzo che Deborah, che voi ricorderete sicuramente, comunque è stata una nostra compagna ed è tuttora una nostra compagna, ma vive a Milano e quindi ci fa diciamo dei pezzi che ci invia di volta in volta. Allora, tempo fa ci ha inviato vari pezzi e questo appunto è Tuteliamo la nostra indignazione, le donne contro senza per. Volentieri leggiamo insieme il pezzo che la nostra carissima amica vicina, lontana, come piace a noi definirla, ci ha mandato ormai da giugno. Lo leggiamo integrandolo a due voci con altre considerazioni e altre donne da citare. Allora, intanto appunto questa è la rubrica e possiamo mandare intanto il primo pezzo musicale, che è da Mafukage, e sentite. Samba Maria, Aparecida, Nossa Senhora, Mãe do Brasil, dança neguinha, não sei dançar, pega no chicote que ela dança já. Samba Maria, Aparecida, Nossa Senhora, Mãe do Brasil, Santa Mãe, menininha da Sé, com axé, Shalom, Salam Aleikum, Saravá, Kiá, Kiá, no recôncavo da Sé. No rito da comida, bebida, dança, guapoché. No mito das escolas de orixás, cantantes, dançantes, do candomblé. Candomblé, candomblé, candomblé. No mito das escolas de orixás, cantantes. Riprendiamo dal Donne contro senza per. Scrive Deborah: questa sera tuteliamo la nostra indignazione parlando di noi stesse. Ultimamente ho letto o solo riletto diversi libri di donne che parlano delle donne. Se volessi fare delle mie recenti letture un excursus sintetico, inizierei da Carla Lonzi e finirei con Elizabeth McKenna. Ragioniamo insieme su questi brani. Da Carla Lonzi sputiamo su Hegel, 1970. La donna non è in rapporto dialettico col mondo maschile. Le esigenze che essa viene chiarendo non implicano un'antitesi, ma un muoversi su un altro piano. La corruzione della democrazia, sia su basi capitalistiche che comuniste, sta in ciò che ciascuno esercita in quel paternalismo che occorre al potere, come se dovesse essere lui a gestirlo. Il movimento femminista è pieno di intrusi politici e filantropici, scusate. Mettiamo in guardia gli osservatori maschili a fare di noi materia di studio. C'è indifferente sia il consenso che la polemica. Gli suggeriamo che è più dignitoso per loro non intromettersi. La rabbia e l'ottimismo femminista degli anni 70, continua Deborah, che spingeva le donne ad unirsi alle altre donne, tutte sicure che non poteva che nascere qualcosa di buono, di diverso, quel modello alternativo di vita e di cultura che, ahimè, ancora oggi stiamo cercando. Il fallimento del femminismo, di tutto il mondo, è il nostro stesso fallimento quotidiano. E proseguiamo con le nostre letture. Da Ute Erhard, Donne cattivissime, 2001. Ma anche le donne fanno errori, anche tra loro c'è la pecora nera. E per favore, non crediate che il mondo del lavoro, non appena le donne conquistano le posizioni decisive, si trasformi in un paese della cuccagna, senza conflitti, senza superiori severi, senza le più dure pretese. Il nuovo mondo non diventerebbe comunque tutto rosa. Ma il fatto di conoscere... No, non si sente, devi parlare più vicino. Più vicino a me. Pronto? Più vicino alla bocca di Roma. Ma... Ok. Allora, scusate, riprendiamo da capo. Da Ute Erhard, Donne cattivissime, 2001. Ma anche le donne fanno errori, anche fra loro c'è la pecora nera. E per favore, non crediate che il mondo del lavoro, non appena si sente... Allora è il tuo che non... Scusate un attimo, problemi tecnici. Dunque, ma il fatto di conoscere qualcuno che non è, qualcuna che non abbia caratteristiche meritorie non significa in alcun modo che in generale non ce ne siano. Un controesempio in questo caso dimostra solo che la superiorità femminile non vale sempre e per tutte. E ricordatevi, solo quando lo stesso numero di donne sciocche e di uomini sciocchi avranno occupato i posti importanti, avremo davvero raggiunto l'emancipazione. E continua Deborah, certo, l'ultima frase della Erhard è epica ed esprime una grande verità ancora incompiuta. Ma dopo 31 anni c'è la stessa carica di rabbia e ottimismo. Nulla sembra essere davvero cambiato nella sostanza e... Pensare che le donne siano davvero superiori agli uomini, tesi più volte ribadita dall'autrice del libro, è consolatorio e dà una grande soddisfazione. Ma guardiamoci dentro, guardiamo la solidarietà che non riusciamo a darci, guardiamo i meccanismi distruttivi e competitivi che noi donne continuamente mettiamo in atto e solo alla luce di questo possiamo ripensare con equidistanza alla nostra presunta superiorità. Ma allora torniamo a Carla Lonzi e al tentativo di spiegazione dei nostri fallimenti, che suggerisce nel 1971, nel saggio La donna clitoridea e la donna vaginale, la donna clitoridea non è la donna liberata, non è la donna che non ha subito il mito maschile, poiché queste donne non esistono nella civiltà in cui ci troviamo, ma quella che ha fronteggiato momento per momento l'invadenza di questo mito e non è rimasta presa. La sua operazione non è stata ideologica, ma vissuta durante buona parte della propria vita attraverso ogni sorta di sbandamenti della norma. Sbandamenti che nella cultura maschile venivano interpretati come una ovvia manifestazione delle vellità dell'inferiore. Ed eccoci di fronte alla genialità della Lonzi, all'espressione con parole semplici e penetranti come coltelli nella nostra anima di una grande verità, né superiori né inferiori, permeati dalla stessa cultura maschile ma con l'aggravante di non avere contribuito a crearla e quindi perennemente integrate nel sistema, ma nel contempo estranee ad esso e quindi divise tra quello che sentiamo, potremo essere, e quello che invece dobbiamo essere per ricevere consenso nella società in cui viviamo. Ma veniamo adesso a quello che potrebbe essere l'ultimo capitolo del nostro viaggio attraverso i libri e, purtroppo, della nostra stessa capacità di reazione. Ok, continuiamo ancora con il pezzo di Deborah, da Elizabeth McKenna, Donne che lavorano troppo, del 1997. Le donne sono consapevoli di venir giudicate secondo parametri diversi. Camminano spesso su una corda sottile, secondo il tipo di comportamento che credono venga loro permesso. Non possono essere troppo battagliere o aggressive, perché questo atteggiamento non funziona. Un'altra parte, forse ancora più grande, del fenomeno brave ragazze deriva invece da un atteggiamento psicologico. Dal momento che non ci viene concesso di competere apertamente con gli uomini alla stregua degli uomini, che facciamo le brave, se siamo estremamente responsabili, concilianti e consenzienti, allora riceveremo dai nostri colleghi quel riconoscimento di cui abbiamo bisogno. È come se noi donne necessitassimo di conferme sul fatto che siamo persone meritevoli, trasformandoci in impiegate modello, esempi di abnegazione. Le donne hanno paura di se stesse, hanno paura di fissare dei confini, hanno paura di assumere il controllo della loro vita. Quizás tu conciencia ha dormido, tu vientre han estado violando, tus ansias han quedado vacías. Luchar fue tu verbo olvidado. Mira perdidos, mujer, te has estado entregando a ciegas como el aire en el llano. Mujer, oye tú mi llamado, por ti la esperanza ha brotado, por ti vuelve y nace la vida. Che state sentendo e che rimarrà di sottofondo è un pezzo da Ellas e Nosotras, Mujer es Tiempo, di Oshi Curiel, che è a questo punto è la nostra grandissima amica. Ancora una grande verità, e a questo punto è Deborah che parla sul pezzo letto prima di donne che da donne che lavorano troppo. Allora, ancora una grande verità detta da una donna sulle donne. L'intero libro è centrato sulla circostanza inconfutabile che il mondo del lavoro sta stritolando le vite private e gli interessi sia degli uomini sia delle donne. In particolare, le donne avrebbero istinti diversi da quelli maschili, intendendo che per gli uomini è del tutto naturale e coerente sentirsi quello che sono sul posto di lavoro, ovvero uomini soddisfatti se hanno avuto successo professionale e falliti se questo successo non sono riusciti a raggiungerlo. Di contro, le donne affrontano la loro vita professionale nello stesso modo, perché la cultura ha proposto loro solo questo modello. Il libro analizza però le storie di donne che nel piano del loro successo hanno abbandonato la carriera per dedicarsi alla loro vita, stanche del malessere generato dalla schizofrenia di seguire il modello indicato dai padri, ma di sentire istintivamente che la loro vita stava scorrendo su binari che non sentivano parte della loro natura. In altre parole, donne alla ricerca della loro identità, distinta dal ruolo professionale che erano arrivate a ricoprire. Tutto molto logico, ma allora dov'è il problema? Constatando la mia insoddisfazione arrivata all'ultima pagina del libro, ancora una volta questo libro, così come tutta la letteratura scritta dalle donne sulle donne, esprime un'analisi ricca e veritiera, ma non propone assolutamente nulla. Non posso pensare che la cosa giusta da fare sia quella di ritirarsi a vita privata o di mettere in piedi una propria attività sufficiente solo a non dipendere economicamente da altre persone. In questo modo riusciremo solo a creare una miriade di isole felici, ma non avremo alcuna possibilità di incidere sulla società e soprattutto sulla cultura che la genera. Prosegue Deborah. L'indignazione di questa sera è rivolta nei miei confronti e nei confronti di tutte le donne che io chiamo donne contro, senza per. Ma perché non riusciamo a trarre forza e compattezza dalle nostre analisi spregiudicate per costruire davvero un mondo nuovo che ci veda ugualmente partecipi e responsabilizzate? Il fatto che i mali del mondo derivano dalla cultura dei padri l'abbiamo detto in tutte le salse e in tutte le epoche, ma quando riusciremo a costruire una cultura delle madri? Quando riusciremo a scatenare la nostra rabbia nei confronti del mondo e non nei confronti di altre donne? Quando la costruzione sarà più importante della distruzione? Quando utilizzeremo la nostra tanto acclamata differenza per trarre qualcosa di buono e duraturo? Quando smetteremo di vedere nelle nostre compagne di lotta dei mostri invece che delle alleate? Quando riusciremo a perdonarci il male che ci generiamo reciprocamente e a valorizzare il bene che potremo offrirci? Ragazze, se avessi avuto le risposte non sarei qui a porci delle domande, ma come dice sempre Lucilla, da sola sono stupida e più ci lasciamo sole e più stupide saremo. Eres una marginal. nunca lo puedes negar. La realidad, y si tus metas quieres alcanzar, nuevos valores tendrás que inventar para no ser marginal. Di Deborah mi hanno stimolato a preparare una sorta di risposta, riflessione su quanto detto prima. Allora, Deborah ha individuato il punto cruciale, direi, della problematica esistenziale delle donne. Ci troviamo a vivere in una cultura costruita ad uso e consumo dei maschi e purtroppo ne siamo impregnate anche noi. In questa cultura la donna ha un ruolo ben definito, non di soggetto, ma di tramite, strumento per il trascendente per il maschio, non entità posta a fondamento della cultura stessa. Questa situazione di soggezione durata secoli è diventata insostenibile con la scoperta dell'individualità. Il conflitto tra modello proposto dalla cultura e coscienza di sé ha generato rabbia, proteste e profonda insoddisfazione. Il problema è che siamo costretti ad usare strumenti inadeguati, strumenti maschili per forza, provengono dalla cultura maschile, per muoverci in un contesto che aborriamo ma di cui tuttavia siamo parte, perché la cultura la respiriamo dalla nascita. Viviamo, mi riferisco alle donne che non si vogliono adeguare, una sorta di schizofrenia, per cui dobbiamo muoverci in un mondo che non ci appartiene, da cui siamo escluse e che disprezziamo, ma nello stesso tempo siamo obbligate a rivolgerci ad esso per trovare i mezzi per sovvertirlo. È un'impresa epica e forse quasi disperata. Io ancora credo che potremmo riuscire a ribaltarla, ma in un tempo molto lontano. Comunque essere contro è utile per individuare i simboli sacrali su cui si basa il potere. Penso per esempio ai simboli del matrimonio, patto tra maschi attraverso lo scambio delle donne, della famiglia, della patria, del Natale, tanto per citarne alcuni. E già avere consapevolezza di questi simboli è un passo per la successiva azione propositiva. Per cui ben venga l'essere contro. Piuttosto invece di persone contro non se ne vedono molte o perlomeno non se ne hanno notizie. I meccanismi del potere maschile ovviamente hanno inglobato la quasi totalità degli individui e non c'è da meravigliarsi dunque se anche le donne ne sono compartecipi. La comunicazione tra donne è difficilissima, tra maschi e donne penso che sia impossibile, perché in quanto poste alla base del sistema culturale le donne non hanno mai comunicato. Sono solo state tramite per la comunicazione dei maschi, scambio delle donne. Ora che abbiamo scoperto la nostra soggettività, rimane pur sempre arduo usare gli strumenti di comunicazione convenzionali in un contesto ostile per cercare di intrattenere rapporti nuovi, creativi, sinceri, senza riproporre logiche di sopraffazione e violenza. L'ambiguità tra dover aderire ad un ruolo prestabilito e nello stesso tempo detestarlo e la consapevolezza di non poter far niente in tempi brevi determina uno stato di frustrazione e di impotenza che ci porta poi a riversare sulle compagne che ci stanno più vicine tutti i nostri rancori. È come se pretendessimo che agissero in modo perfetto, puro, incontaminato e che capissero le cose ovvie per noi. Ma l'ovvio è proprio quello che dobbiamo analizzare, perché non c'è nulla di più pericoloso e di più mistificante delle cose scontate. I simboli sacrali che nascondono la realtà concreta per perpetuarsi, si celano ovunque e cominceremo a gettare le basi di una nuova cultura quando la foresta di simboli sarà pietrificata. Thank you. santo Dio, potente creazione, preziosa superstar, acrobata del vizio, tu la Allora, questa è la risposta che vi ha letto Claudia e altre cose ovviamente Deborah con il suo scritto le ha suscitate a me. Allora, inizierò col dire che sono anni che con Rosina proponiamo una lettura ragionata di Scum ed è per questo che ho voglia di rileggere insieme l'inizio del libro. Da Scum Manifesto per l'eliminazione dei maschi di Valéry Solanas, 1968. In questa società la vita, nel migliore dei casi, è una noia sconfinata e nulla riguarda le donne. Dunque, alle donne responsabili, civilmente impegnate ed in cerca di emozioni sconvolgenti, non resta che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione globale e distruggere il sesso maschile. Ma perché sono così affezionata a questo testo? Perché nell'essere così provocatorio e surreale indica in modo semplice come si può scommettere su un pensiero diverso, fondandolo cioè sull'utopia. Del resto mi viene da pensare che chi vive nella subalternità, nello sfruttamento, o scivola nell'oblio di sé o è contro. Contro tutto ciò che individua come pericoloso rispetto a quell'integrità dell'io che non sa esprimere. E si può sentire minacciata soprattutto da chi le è più simile e vicina. Altro è dimenticarsi di sé, stando contemporaneamente all'interno delle compatibilità del potere. E per questo cito Adrienne Rich dal saggio Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica del DVF numero 23-24 del 1985. L'eterosessualità è stata imposta alle donne sia con la coercizione materiale esplicita che a livello del subconscio. Eppure, ovunque le donne vi hanno opposto resistenza, spesso a costo di torture fisiche, reclusione, psicochirurgia, ostracismo sociale e povertà estrema, l'istituzionalizzazione dell'eterosessualità è stata inclusa nell'elenco dei crimini contro le donne da parte del Tribunale di Bruxelles sui crimini contro le donne del 1976. Le testimonianze di due donne provenienti da culture profondamente diverse stanno a dimostrare come la persecuzione delle lesbiche sia una pratica universale, qui ed ora. Un rapporto della Norvegia dice: una lesbica di Oslo era sposata, ma il suo matrimonio eterosessuale non funzionava, perciò cominciò a prendere tranquillanti e finì in un sanatorio per un periodo di cura e di riposo. Quando disse durante la terapia del gruppo familiare che pensava di essere lesbica, il medico le assicurò che non lo era. Disse che si vedeva guardandola negli occhi. Aveva gli occhi di una donna che desiderava il rapporto sessuale con suo marito. Perciò fu sottoposta alla cosiddetta terapia tattile. Fu messa in una stanza ben riscaldata, nuda su un letto, e suo marito doveva cercare di eccitarla sessualmente. L'idea era che le carezze dovevano per forza terminare con un atto sessuale. Lei sentiva crescere sempre di più la sua avversione, vomitava e qualche volta scappava dalla stanza per sfuggire a quella cura. Più lei affermava di essere lesbica, più violento diventava il rapporto eterosessuale cui la costringevano. Questa cura si prolungò per circa 6 mesi. Lei fuggì dall'ospedale, ma la riportarono indietro, fuggì di nuovo. Da allora non c'è più tornata. Alla fine si è resa conto di essere stata sottoposta a 6 mesi di una vera violenza. Un'altra testimonianza dal Mozambico. Sono condannata a vivere in esilio perché ammetto che sono lesbica e che i miei primi pensieri sono e saranno sempre per le donne. Nel nuovo Mozambico il lesbismo è considerato un residuo del colonialismo e della decadente civiltà occidentale. Le lesbiche vengono mandate in campi di riabilitazione perché attraverso l'autocritica imparino la linea corretta. Se avessi il coraggio di denunciare il mio amore per le donne, se dunque denunciassi me stessa, potrei tornare in Mozambico e unirmi alle altre forze nell'entusiasmante e dura lotta per la ricostruzione di un paese, compresa la lotta per l'emancipazione delle donne mozambichiane. Così come stanno le cose, o rischio il campo di riabilitazione o resto in esilio. Né si può pensare che delle donne come quelle descritte da Carol Smith Rosenberg, che ha fatto una ricerca storica per esempio sulle bostoniane ed altro, che conducevano una vita da maritate ma rimanevano legate ad un mondo emotivo e passionale profondamente femminile, preferissero o scegliessero l'eterosessualità. Le donne hanno contratto matrimoni per tante ragioni: perché era indispensabile per poter sopravvivere economicamente, per poter avere figli senza esporli all'indigenza e all'ostracismo sociale, per mantenere la rispettabilità, per corrispondere alle aspettative sociali, poiché dopo l'esperienza anormale dell'adolescenza esse desideravano essere normali, e perché l'innamoramento eterosessuale è sempre stato rappresentato come la massima avventura femminile, il primo dovere e la massima fonte di appagamento. Possiamo aver accettato con un atteggiamento sincero e ambivalente l'istituzione, ma i nostri sentimenti e la nostra sensualità non sono stati domati o rinchiusi al suo interno. Non esistono dati statistici relativi al numero di lesbiche che ha passato gran parte della vita in matrimoni eterosessuali, ma in una lettera ad una delle prime pubblicazioni lesbiche, Telleder, la commediografa Lorraine Hansberry affermava: ho il sospetto che il problema riguardante donne sposate che preferirebbero avere rapporti fisico-emotivi con altre donne sia proporzionalmente molto più esteso di quanto non rivelerebbe un'analoga statistica fra gli uomini, una statistica che certamente nessuno vorrebbe mai effettuare. E questo perché, essendo lo stato sociale della donna quello che è, Come potremmo mai indovinare la quantità di donne che non sono pronte ad avventurarsi in una vita contrastante con ciò che è stato loro inculcato come destino naturale e insieme rischiare la loro unica aspettativa, cioè la sicurezza economica? Sembra che questo sia il vero motivo per cui la questione ha per le donne una portata che non sembra avere per gli omosessuali maschi. Una donna forte e onesta può, se vuole, troncare il suo matrimonio e contrarne un altro con un altro uomo. E la società si inquieterà per l'aumento del numero dei divorzi, ma sono veramente pochi i luoghi degli Stati Uniti in cui verrebbe considerata come qualcosa di vagamente simile ad un paria. Ovviamente questo non vale per la donna che mettesse fine al suo matrimonio per andare a vivere con un'altra donna. Allora, prima di mandare il prossimo pezzo musicale, vi ricordiamo che il pezzo che avete sentito poc'anzi era di Gianna Nannini ed era Volo. E adesso un pezzo a me molto caro, che è di Caterina Bueno, una grandissima ricercatrice di musica popolare, e il pezzo si chiama Viva il coraggio ed è da Canti di Anarchia. Batta l'otto, ma saranno le nove. Società dacci mangiare, viva il coraggio e ma chi lo sa portare l'anarchia. Figlioli han fame, chiedono pane. Anch'io da socialista, oh, mi voglio vestire. Ed è ovvio che il primo appuntamento che vi ricordiamo è quello di giovedì 31 di ottobre alle 21:30 presso il Centro Femminista Separatista e quindi presso di noi, a vedere Les Bollywood e quindi film a tematica lesbica che noi del Coordinamento Lesbiche Romane, il CLI e quindi il CFS, più con la collaborazione in collaborazione con Arci Lesbica di Roma e Le Frutte Migranti, facciamo ogni giovedì. Il film in programmazione è Better Than Chocolate, cioè Meglio del Cioccolato, di Anne Weller del 1999. E è una divertente commedia romantica sul venir fuori e l'essere oneste con se stesse. Altra iniziativa che vi segnaliamo è quella di domani, cioè mercoledì 30 ottobre alle 17:30, nella sala della Protomoteca del Comune di Roma, le donne in nero terranno un'iniziativa dall'interessantissimo titolo Donne dai luoghi di conflitto si raccontano. e quindi ci saranno probabilmente donne israeliane e donne palestinesi che si confronteranno. E venerdì 1 novembre parti Lesbians and Friends, continua la stagione invernale della notte più trasgressiva dedicata alle donne gay e ai loro amici. E l'appuntamento è a Milano. Quindi dovete fare qualche chilometro? Aspettate che non lo trovo un attimino. Al Plastic Club, Viale Umbria 120, Milano. E scusate lo sfogliaccio, ma ci abbiamo tanta carta. Allora, iniziative segnalate ancora delle donne per le donne. È la radice della prostituzione, la matrice di tutte le violenze, è la violenza dell'uomo sulla donna, e su questo noi siamo perfettamente d'accordo. Il 9 novembre 2002 alle ore 15, sempre alla Casa delle Donne di Roma in via della Lungara 19, ci saranno Ivana Iovino, Tamara Di Davide e Laura Cima, quindi presentazione di un saggio che illustra le radici del fenomeno prostituzione e come combatterlo. E sarà presente, insieme per la presentazione del libro, il Comitato Etico Donna in Lotta alla Prostituzione, che avrà lo scopo di evidenziare e mettere sotto accusa il sistema socio-economico e culturale, storiografico e religioso da cui scaturisce la condizione femminile e la sessualità maschile, i due pilastri della prostituzione, organizzato da Tamara Di Davide, direzione Macro Edizioni. Per informazione, Tamara Di Davide, telefono fax 06 9398 174, email comitatoetico@tin.it. E con scadenza 25 novembre c'è il sesto premio letterario Idea Donna 2003. Il tema di questa edizione è Donne sommerse. Gli iscritti dovranno attenersi a questo tema. Ci sono due sezioni, poesia inedita e narrativa inedita. Per le informazioni consultate il sito www.women.it bandi/bandi/ premio letterario Idea Donna 6.html. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold. Rapida dedica da parte di Caterina e non solo, anche da parte di Lucilla, che sono io, e di Claudia, di questa splendida canzone di Janis Joplin che è Summertime. c'è Caterina che non riesce più neanche a fare la fonica da quanto le piace sta canzone, sta sballata. Allora, siamo nel quarto d'ora libero, free, per cui vi ricordiamo, per chi si fosse messa in ascolto soltanto adesso, che siete all'ascolto della trasmissione È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, che è a cura del CLR, cioè del Coordinamento Lesbiche Romane, nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 di Radio Onda Rossa. Allora, per contattarci potete chiamarci qui naturalmente, oppure scrivere all'indirizzo email contatti@clrbp.it, oppure potete visitare il nostro sito che è www.clrbp.it. Se andate poi sul nostro sito, oltre a vedere quanto siamo carine, quanto siamo brave, documenti, quello che vi pare, eccetera, eccetera, potete anche andare su radio e cioè cliccare sulla finestrella apposita, mi stanno facendo cenni, e in questa maniera potete ascoltarci direttamente via internet, direttamente ed in diretta. Quindi a questo punto, se poi andate fuori Roma, non so, andate a fare una gita un martedì e siete fuori, volete, vi preme e vi scappa di sentirci, lo potete fare. O chiaramente potete ancora trovarci ogni mercoledì presso il Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B, ci potete venire a trovare, noi siamo lì per la redazione dalle 20:30 in poi, e poi potete telefonarci allo 06 6864 201 che è anche straordinariamente segreteria e fax. Se volete mandarci dei contributi, noi siamo sempre qui che li aspettiamo. E non mi ricordo se prima ho detto che giovedì, per il film che c'è, Meglio del cioccolato, il luogo dove si tiene è presso il Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B, ore 21:30. Ingresso solo donne. E dal mio splendido tedesco, Mitternacht, delle Kick la Luna, che sono delle nostre beniamine naturalmente. Yeah. E vorremmo manifestare la nostra solidarietà sia come coordinamento lesbiche romane che come tutto il martedì femminista e lesbico autogestito alle persone, sia le compagne che gli altri, che gestiscono il sito www.larivestina.com, che è stato sospeso a titolo cautelare. È stato oscurato dal servizio di hosting ditta.com a causa, a quanto pare, dell'arrivo di una denuncia per ipotesi di diffamazione. Sarebbe la rivistina.com il foglio work in progress di ricerca sull'identità. Tutta la nostra solidarietà, che per chiunque volesse informazioni e contattare l'indirizzo email redazione@larivistina.com. Allora, credo che siamo in chiusura, c'è Caterina che sta cercando di salvare la trasmissione sul computer. E l'altra notizia, l'altra cosa che volevamo ricordare a tutte è che dal 6 al 10 novembre si terrà a Firenze il primo social forum europeo e la versione Vecchio Mondo di Porto Alegre. Noi sappiamo che ci saranno vari seminari con un vasto e variegato forum, molti appuntamenti femministi e 3 incontri a tematica lesbica. Ci interessa continuare a segnalarvi l'incontro del gruppo de Lesbianes Feministes di Barcellona, che organizza uno workshop contro il matrimonio. A partire dall'idea che questa istituzione rappresenta la rinuncia della collettività ad assumersi la responsabilità della necessità delle persone e l'abbandono all'ambito privato delle relazioni di dipendenza, si propone l'abolizione del matrimonio. Naturalmente noi siamo d'accordo e naturalmente vi invitiamo a partecipare. E vi salutiamo. Il prossimo martedì questa trasmissione andrà in replica, però nuovamente noi saremo qui nel quarto d'ora di diretta. E vi salutiamo, Lucilla, Claudia, Caterina e Caterina la grande fonica. Arrivederci alla settimana prossima. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. La del pane sfornato mi si offre il libero disinformato. Il tempo è una parola, adesso io vado sulla, adesso io vado sulla, adesso io. Mi libero degli abiti pesanti della casa offuscata da nebbie di cucina, pranzo, cena, mattina che incombe come una pietra nera di affetti che ti schiacciano al suolo. Adesso io adesso io, vado sola adesso io, vado sola adesso io, vado sola. Thank you.